Ci sarà Ulrico Bernardi, ma ci sarà Maurizio Gusso dell'Università di Milano. Meglio, dice qui il relatore. Voi sapete che i docenti universitari sono sempre molto così, hanno dei rapporti particolari fra di loro. Ecco, quindi la settimana lunedì, cioè non in quel senso, lunedì ci sarà quindi Maurizio Gusso dell'Università di Milano e Adele Jabbar dell'Università di Venezia che ci parleranno di memoria e identità nelle società multietniche. Questa sera invece vorremmo affrontare il problema di memoria e identità nell'immigrazione. Abbiamo invitato quindi appunto Emilio Francini, che insegna storia contemporanea a Verona, e Mirella Granni, che insegna storia sociale a Trento, che da anni si occupano di storie dei movimenti migratori, quindi soprattutto in area nord-est per quanto riguarda Emilio Franzina, soprattutto, ma non esclusivamente, con particolare riguardo al Trentino e Mirella Grandi. L'immigrazione trentina all'interno del Tirolo, Vorarlberg, è un argomento che ci interessa in particolar modo, perché poi dopo le prime presenze italiane qui in provincia di Bolzano poi sono datate fino all'800, sono la conseguenza di questo movimento migratorio, nella Bassa Tesina legate ad esempio all'agricoltura, nella città di Bolzano legato al commercio, a Merano legato alla costruzione di grandi alberghi. Ecco, quindi sono argomenti che ci interessano in particolar modo. Terzo relatore è Claudio Nolet, che voi tutti conoscete. Claudio Nolet è nato a Trieste, cresciuto a Merano e poi per anni insegnante e preside del liceo classico a Bolzano, collaboratore del Cristallo e assessore alla cultura per 10 anni. Per 12 anni al comune di Bolzano. Quindi direi che diamo la parola prima a Emilio Franzina, poi dopo prendiamo così. Sì. No. Signori, buonasera, perdonate l'arrivo lievemente ritardato con aggiunta anche di mini intervista televisiva che ha spostato di un bel po' rispetto ai costumi e anche agli annunci l'avvio di questa piccola tavola rotonda. A parte il fatto che io arrivando a Bolzano, parlando di immigrazione, gente che si sposta, ne avevo un ricordo non lontanissimo di città sostanzialmente ordinata e invece il traffico automobilistico, almeno a quell'ora in cui sono giunto io, è terrificante. Chissà come avrebbero interpretato coloro che si spostavano molto spesso anche a piedi, perché l'immigrazione è prima di tutto un fatto di mobilità territoriale e umana con gente che si muove, appunto. Cosa avrebbero pensato se con un colpo di bacchetta più o meno magica fossero stati sbalzati là dove ero io mezz'ora fa, imbottigliato in un traffico che non ha niente da invidiare a quello delle peggiori metropoli, soprattutto da un punto di vista, chiamiamolo, ambientale e della respirazione. Ma questo per dire che non bisogna idealizzare niente, meno che mai il nostro presente, ma nemmeno forse il passato a cui si riferisce, un passato lungo peraltro. Il concetto in genere di emigrazione e nella fattispecie per la ricostruzione storica, i processi migratori che per un secolo e mezzo, dico quelli di massa perché altri ce n'erano stati ben prima, si sviluppano a partire da vari punti della penisola. Ricordavo prima agli intervistatori che solo quasi il Tirolo italiano ne è in buona misura esente e qualche altro angolino d'Italia, ma nessuna parte di questo paese è diventato Stato-nazione e successivamente costituitosi, come sapete, con aggiunte, tra cui quella dell'Alto Adige, contestata più tardi, anche quando l'emigrazione era diventata, pensate al tempo della Prima Guerra Mondiale, culturale, evidente, assolutamente leggibile nella storia del paese che stava alle spalle prima di questo evento di spartizione, il 1900 per l'Italia, 15-18, il 14 per tutti gli altri europei entrati nella guerra, appunto, mondiale. Costituisce un primo momento di divisione, al di là di quello che porterà poi, porteranno le trattative di pace, dove si può leggere in qualche misura anche la suddivisione fra i grandi flussi migratori d'età contemporanea, quelli che cominciano a determinarsi intorno alla metà dell'Ottocento e che prendono strade diverse, ad esempio per gli emigranti, ad esempio del Trentino oppure del Veneto, da dove vengo io, in direzione dell'America Latina, altri invece già più squilibrati, oltreoceano, verso gli Stati Uniti, ma sostanzialmente per la maggior parte delle regioni del nord, per ovvi motivi, in direzione dei paesi limitrofi, i paesi di lingua e cultura tedesca, l'area danubiana e anche più in là, se prendete tutta la produzione letteraria contemporanea e anche successiva, arrivando fino a Sgorlon per dire o a Mario Rigoni Stern, voi avete dei flash che percorre in lungo e in largo il continente europeo e non soltanto quindi che si diriga verso le Americhe e che inevitabilmente se non altro perché ci sono oggi questi scrittori che ne parlano, qualcosa lascia nel ricordo. Ancora di più nel ricordo e nella memoria lasciano qualche cosa i movimenti migratori successivi, che però sono diversi e sempre di più tengono distinti da quelli che li avevano preceduti, salvo une ovvie somiglianze che sono ineliminabili, man mano che ci si inoltra nel XX secolo, dove, finita la guerra, per pochi anni l'emigrazione di massa ha modo di riprendere, in dire che i mercati europei, visto che si tratta fondamentalmente di questione di lavoro, sono stati sostanzialmente e rimarranno a lungo chiusi proprio dalle conseguenze della guerra. Quel poco, che però non è neanche pochissimo, che dall'Italia, e faccio solo il caso italiano, sì, in termini di emigrazione, si ha in direzione quindi di nuovo, è disposto ad accogliere, anzi voglioso di accogliere migranti, non solo italiani, anche polacchi, anche rimane aperto a un'emigrazione diciamo di stampo tradizionale, anche se poi si complicherà con l'avvento del fascismo per l'inserimento nelle file dell'emigrazione stessa di tantissime ragioni, oltre che di tantissimi soggetti che non solo se ne vanno dall'Italia, ma ne scappano in quanto, assieme al bisogno, hanno tra le motivazioni anche la paura di essere discriminati o perseguitati. Una tranche interessante di queste migrazioni tra le due guerre, che sono quindi contenute e misurate, si ha con gli accordi italo-tedeschi del 37-38, quando comincia la vera emigrazione, un nuovo tipo di emigrazione rispetto a quella che c'era stata nel Reich Guglielmino, di lavoratori sull'ordine del 500-600 mila unità. Pensate che nel periodo precedente questa era la media annua invece dell'espatrio calcolato su tutte le due componenti, sia temporanea, europea che transoceanica. E questo è un tipo, ad esempio, di emigrazione che lascia un certo genere di memorie che si mescola con vicende che poi nei primi anni della guerra, visto che non tutti rientrano e rimangono addirittura a lavorare in Germania, perché la Germania è un paese alleato, si confonde con le complicazioni anche inevitabili di quel conflitto che, oltre che militare, è un conflitto ideologico. Però non è che finisca qui, perché tutti sanno che dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, lasciato trascorrere un periodo brevissimo di un anno e mezzo, di nuovo in direzione della Francia, poi verso il Belgio, i bacini carboniferi soprattutto del Belgio e anche altri paesi europei, c'è la rinascita del movimento migratorio nazionale. Addirittura per 10 anni ci sarà una ripresa di emigrazione, non verso gli Stati Uniti che hanno chiuso definitivamente le porte, ma verso l'Argentina e verso il Brasile. Ad esempio l'Argentina, come col Belgio, in virtù di accordi bilaterali che scambiano quasi, direi, uomini contro l'Argentina carne congelata e in Belgio invece uomini contro approvvigionamenti di carbone. Marcinelle chiude la stagione dell'emigrazione italiana in Belgio e di lì a poco si apre, alla fine degli anni 50, ma quando già l'Italia è entrata a far parte, anzi come paese promotore di questa nuova configurazione che è l'Europa nascente, inizia la grande emigrazione degli italiani, non solo dal sud verso il nord della penisola, ma da varie parti verso la Germania che si sta reindustrializzando dopo la prima fase di ricostruzione. Qui penso ci si possa interrogare ragionevolmente sul rapporto fra memoria ed emigrazione. È necessario fissare, come ho cercato di fare dal punto di vista della ricostruzione degli eventi, dei punti fermi, perché un conto è la memoria dell'emigrazione delle origini, e vedremo che pesa nelle ricostruzioni anche odierne, soprattutto nell'uso pubblico di che dire nei confronti di Ulderico Bernardi. Non faccio l'accademico perché mi pagano e mi danno lo stipendio, faccio il professore per quello, cerco di farlo bene, ma non ho una mentalità accademica e quindi non rincorro le liti classiche di quel mondo, le lascio da parte. In compenso però sono molto più attento ad altre operazioni di cui Ulderico Bernardi è da tempo immemorabile nella mia regione uno dei protagonisti principali, lo sfruttamento sistematico della risorsa identitaria e di un certo tipo di memoria dell'emigrazione. Anzi, direi addirittura che Ulderico Bernardi con i suoi lavori potrebbe essere l'emblema di quel tipo appunto di memoria tutto schiacciato sull'emigrazione antica, quella dei pionieri, quella che va nelle Americhe, quella che va in Brasile, che diventa un mito, e di cui si accorgono oramai, mentre gli italiani sono distratti, addirittura loro stessi. Questo libro, Ulisses va in America, Historia, storiografia e mitos da immigrazione italiana no Rio Grande do Sul, di una giovanotta sul Rio Gradense di Sepicin Cortese, è tutto dedicato a smantellare la costruzione mitologica che viene fatta sfruttando alcune risorse della memoria in rapporto a un fenomeno che in quella parte del Brasile, il Rio Grande do Sul, lo stato più meridionale, quello raggiunto non dalla maggior parte degli italiani, perché gli italiani sono molto più numerosi a San Paolo, ma raggiunto da quel gruppo consistente e poi autoriprodottosi per ovvie leggi di natura in zona, che ha occupato degli spazi vuoti e ha occupato non solo pezzi quindi della realtà geografica ed economica, ma anche della società, diventando in qualche modo maggioritario assieme ai tedeschi. Fra l'altro, altra curiosità, che è come in Santa Catarina, meno che in Paraná, questo è un pezzo di America in cui gli italiani, segnatamente i lombardi, i veneti e poco altro, convivono da 100 e passa anni con altri immigrati europei che sono di lingua e cultura tedesca, anche se non sono tedeschi del sud, vengono dalla Pomerania, vengono dal nord della Germania e c'erano arrivati 50 anni prima. E in questa fattispecie sono stati coloro che per primi arrivarono effettivamente i protagonisti di un'opera di stampo pionieristico. Se voi guardate gli emigranti, in effetti, che vanno in America, poi tutto il discorso, penso, dell'immigrazione anche temporanea o nel Foralbergo o altrove potrebbe essere meglio rumeggiato da Mirella Grandi, ma insomma, se voi pensate a questi emigranti della fine dell'Ottocento o degli anni 70-80 dell'Ottocento, che vanno, nel caso italiano, dal nord dell'Italia al sud dell'America, non è che vi allontanate molto come tipologia, come trasporti prima e poi come marce di avvicinamento e poi come primo ambientamento da quella specie di scenario che ci è stato consegnato manu militari dalla cinematografia hollywoodiana e dalla costruzione condotta con ostinazione anche qui per più di 100 anni da un'industria culturale che è quella degli Stati Uniti, che quindi ci fa sospirare e tremare non solo per i medici in prima linea come recentemente accade, ma già prima, quando si era bambini, io parlo per gli anziani come Giorgio delle donne, no? Di fronte ai conflitti fra i bianchi e i pelle rossa. E perché i nostri no, non li hanno trovati, i nostri fra virgolette, anzi i nostri senza virgolette, direbbe Bernardi, i pelle rossa, gli indiani del sud del Brasile, li hanno trovati e come li avevano trovati i tedeschi? E cosa hanno fatto i nostri miti coloni, i nostri bravi contadini? Direi in dialetto veneto i gacopà. Li hanno ammazzati, cioè hanno contribuito alla fase finale dell'eliminazione, del genocidio delle popolazioni indigene. Non da soli, poverelli, perché poi era una guerra anche fra poveri, intendiamoci, ma vederli arrivare nei primi anni 70 e 80 dell'Ottocento su carri trainati da buoi quando andava bene, insediarsi in zone dove c'era solo foresta vergine, dove il governo locale gli aveva assegnato terreni da riscattare col lavoro, e a misurarsi con le nefaste influenze dell'ambiente, animali pericolosi, clima diverso e anche gente che ci stava prima, dava luogo a una conflittualità inevitabilmente destinata a sfociare in questo, anche se poi furono i governi di quei paesi, soprattutto il governo argentino, a finire l'operazione sporca avviata dagli spagnoli e anche dai portoghesi nei secoli precedenti. Guardate che c'è una specie di coincidenza cronologica spettacolare, addirittura, che in qualche modo così ricorda le ironie della storia in grande stile. Se voi prendete le statistiche dell'immigrazione italiana, andate a vedere quando cominciano, non quando si comincia a studiare l'immigrazione, ma grosso modo tutti gli storici, specialmente quelli che si occupano di storia economica, che dicono statistiche dell'immigrazione italiana, prendono l'anno 1876, perché è la prima volta che il governo italiano, per il caso nostro, prende in esame la questione, ma anche gli altri paesi europei o poco prima o poco dopo sono lì. Gli unici che erano in anticipo erano gli inglesi, perché gli inglesi, il Regno Unito dà l'apporto più robusto all'immigrazione europea, soprattutto in America, per 100 anni, supera di gran lunga anche l'Italia, e senza l'apporto degli irlandesi, sia ben chiaro. Ebbene, se uno guarda quegli anni lì, a un certo momento gli viene da pensare, perché nel giugno del 1876, come racconto in un altro degli spettacoli che faccio con Davide Riondino, questo è uno spot pubblicitario con Enrico Rava e Stefano Bollani, chi li conosce capisce che non è una cosa da poco. Ebbene, questo spettacolo si intitola Il trombettiere, nelle pianure del Wyoming, tra l'Idaho e il Wyoming, non lontano dal parco di Yellowstone, sulle colline del Little Bighorn, il generale George Armstrong Custer finisce incontro alla più cocente delle sue sconfitte, nel corso di una delle operazioni di pulizia etnica organizzate in grande stile dal governo statunitense, che procedeva in maniera sistematica con l'aiuto di qualche folle visionario generale di 20 anni, poi ne aveva 37. Ma due anni più tardi il generale Julio Roca, che diventerà poi presidente della Repubblica Argentina, parte per la grande campagna del deserto e ammazza tutti gli indiani. Ora, ad esempio, su questa faccenda qua, la chiudo qui perché sennò si fa notte, che cosa ricordano le popolazioni evidentemente immigrate? Perché in Italia di questo ricordo è sbiadito, cioè di tutta un'epopea, chiamiamola così, che per altri versi, se fosse avvenuta negli Stati Uniti, avrebbe dato luogo all'ennesima serie di film, qui trapela quello che giungeva attraverso alcune lettere e si fissa nel ricordo della gente, e poi sempre più sbiadito si conserva come hanno fatto fatica, c'erano i bissi, dicono i contadini veneti, cioè gli animali pericolosi, soprattutto rettili, e gli indiani, stop, finito. Nella memoria invece dei gruppi immigratori, quella che si trasmette e che ricalca spesso la tipologia proprio del racconto dell'immigrazione fatto in Italia dai fautori di una lettura oggi irenica ma molto strumentale, questo fatto si fissano delle, appunto, delle sensazioni, delle immagini che corrispondono solo in parte a ciò che è accaduto e che non tengono minimamente conto di una diacronicità, di uno sviluppo degli eventi. Cioè la memoria, in un certo senso, adesso è il caso che ho citato, quello del Rio Grande do Sul, si blocca su un punto, e però questo punto su cui si blocca la memoria non è inessenziale, tanto che quando si vanno a interrogare ancora oggi protagonisti di quelle altre fasi dell'emigrazione, quelle che vi dicevo prima, degli anni seguiti alla Prima Guerra Mondiale, dell'emigrazione in Francia, dell'emigrazione in Germania, nel Reich nazista, e l'emigrazione del dopoguerra, l'ultima, quando si vanno a interpellare risuonano accenti misti di autenticità rispetto a ciò che effettivamente uno ha sperimentato, che si ricorda, pronti peraltro a usarlo come arma a doppio taglio, perché ad esempio se interpellate tanti emigrati che hanno fatto l'esperienza della Germania, del Belgio, nel secondo dopoguerra, c'è una premessa agghiacciante che dice: noi sì abbiamo patito tutto, non questi che arrivano adesso che trovano tutto pronto, tanto per spiegarsi che l'emigrazione, anche se sperimentata in prima persona, non vaccina nessuno e non mette al riparo dagli equivoci e dai problemi che determina l'incontro con l'altro, con il diverso. Vabbè. Però quello che colpisce è il fatto che sono sollecitati a dare una risposta sull'esperienza propria e su quel tipo di immigrazione e te ne parlano anche, ma rivanno sempre, e poi gli intervistatori e spesso anche gli storici, per non dire i propagandisti, ci si buttano a capofitto perché ci sguazzano dentro, nel campo mitologico o mitemico, cioè l'emigrazione, quella di cui si parla e di cui si sono costruiti attraverso l'uso della memoria altrui veri e propri monumenti, è l'emigrazione avvolta non nelle nebbie, ma insomma in queste aure, ho staccato fino a no, in queste aure appunto mitologiche che non sono tutto, insomma. Sì, c'è stata quella fase, vi dico io, che ne sono molto in un certo senso innamorato, perché la studio, vado di qua e di là a recuperare le vicende successe in Brasile, in Argentina, ma anche negli Stati Uniti fra gli anni 70 e 90 del secolo trapassato, però sono consapevole che non è tutta lì. E soprattutto che cosa è successo poi? Che se si va a verificare nella memoria collettiva di questa nazione, se la possiamo e vogliamo chiamare così, lo spazio che è stato fatto all'immigrazione in rapporto a quello che l'immigrazione ha rappresentato è veramente uno spazio modesto. Cioè nei ricordi di famiglia qualcosa c'è, non c'è nessuna famiglia in Italia che non abbia un pezzo di un ramo, un qualche cosa che non rimandi a un angolo della terra dove sono andati i parenti, stretti o meno stretti, o conoscenti. Non c'è paese, non c'è borgo, non c'è villaggio che non l'abbia sperimentato, però per lungo tempo, sino alla fine dell'emigrazione, che si può collocare intorno alla metà degli anni 70 del Novecento, anche adesso c'è emigrazione, forze intellettuali, giovani studenti e giovani neolaureati sono costretti a emigrare, è un'emigrazione di tipo diverso, ma non vorrei che dimenticaste la scena e non la sceneggiata dei ricercatori che hanno passato il concorso ultimo, sono più di 1000, con il passaporto in mano, perché tra gli altri interventi nefasti del governo in carica si segnala anche quello del blocco delle assunzioni, non tanto per il futuro ma per quelli che hanno già in rapporto a un patto non purtroppo firmato da Bruno Vespa, perché questo avrebbe risolto tutto, hanno già vinto il concorso e sono lì che sono bloccati. E che quella è un'emigrazione, ma non è più evidentemente l'emigrazione della valigia di cartone, di contadini, eccetera. E allora cosa si deve dire? Che evidentemente di quella vicenda lì la memoria è stata coltivata fino a un certo punto per tramiti diretti e familiari e riscoperta solo più tardi quando è successo un guaio. E qui viene fuori l'identità. Io vi faccio solo il caso del Veneto perché mi tira a cimento solo sentire evocare il nome di Ulderico Bernardi. Cioè, quando, dopo aver distrutto tutto quello che avrebbe consentito un minimo di manutenzione o di preservazione della memoria, disperati perché non avevano più un Ubicon System, spauriti e preoccupati dall'avvento di un nuovo mondo globalizzato, segmenti, gruppi di una popolazione resasi meritoriamente autonoma dal punto di vista economico ed anzi ricca ed affluente, hanno cominciato ad avere paura perché hanno capito che ci sono anche altri problemi che devono essere risolti per tenere unita in piedi una società e hanno iniziato una danza tribale attorno ai resti di quello che fu. Non ce l'hanno più l'identità. Ad esempio nel Veneto non occorre che vi inviti a uno dei miei spettacoli, andate, che è molto più famoso di me, oltre che amico mio, da Marco Paolini, e fatevi raccontare che cos'è diventato il Veneto. Un po' in parte quello che dicevo prima, citando il mio arrivo automobilistico a Bolzano. Cioè, molte cose che qui ancora in realtà ci sono e sapete perché e come ci sono, non sono state minimamente salvaguardate in intere parti della penisola, soprattutto nelle valli dell'arco alpino, quelle bergamasche, quelle bresciane, quelle venete, dove guarda caso, con una continuità anche rispetto a forze politiche precedenti, ma con un'identità nuova, identità stavolta politica, sorgono movimenti che rivendicano a una matrice locale tutti i diritti per negarli agli altri che starebbero contribuendo alla distruzione di ciò che in realtà essi stessi hanno provveduto a rovinare. Cioè, è inutile che si lamentino nel Veneto di non avere più la polenta d'aragna, no, quello in Lombardia, la polenta di Marano o altre robe. Hanno distrutto la campagna, hanno fatto capannoni. Non puoi avere tutte e due le cose. Allora, cosa succede? Che se perdi nella realtà in cui vivi elementi fondanti della tua identità, devi scatenarti intanto contro gli altri. In prima istanza, per una decina d'anni, erano i terroni, cioè erano i meridionali, nemici del separatismo leghista e dei movimenti nazionalisti periferici, perché l'Italia è solo uno di questi esempi, erano gli italiani del sud, che sono stati rapidamente e lestamente sostituiti nel giro di una decina d'anni successivi dagli immigrati stranieri. Però non era finito, bisognava trovare un posto dove il Veneto, ad esempio, c'era ancora. E questo posto, fatalità vuole che fosse, ed è un caso unico, sapete che il Rio Grande do Sul abbia delle isole linguistiche, culturali e con strutture organizzative e produttive simili a quelle del Veneto da cui veniva la parte maggioritaria degli immigranti. Sì che si va a cercare fuori quello che dentro non c'è più. E allora l'uso evidentemente della memoria è un uso come minimo non distorto, ma esposto a delle critiche legittime. Perché anche lo stesso voto dato agli italiani all'estero non consegue da una battaglia, come si racconta, strenua e meritoria, soprattutto per alcune sue conseguenze che si vedranno non appena entrerà in funzione il marchingegno, ma da delle necessità di nuovo di tipo identitario. Lì non era il movimento leghista, che è, ripeto, un movimento nazionalista periferico anni 80 del Novecento, lì era una forza radicale di destra che ha sempre coltivato, anch'essa per motivi simili, però per aver perso un'egemonia e un predominio culturale nell'Italia seguita alla sconfitta in guerra, che ha coltivato un rapporto privilegiato con le comunità italiane all'estero, riuscendo anche a realizzare attraverso il controllo della stampa operazioni appunto di recupero e di manutenzione della memoria. Naturalmente non gli si poteva chiedere ai fascisti o ai post-fascisti di rinunciare alle loro posizioni ideologiche, lo hanno fatto in funzione di quello che gli interessava, ma hanno ottenuto determinati risultati che sono stati in una misura simbolica, sempre col richiamo all'identità e alla memoria, riversati in un'iniziativa di legge, quella che dà il voto ai cosiddetti italiani all'estero. Però badate bene che una parte degli italiani all'estero sono italiani davvero, per modo di dire. Ci si interrogherà poi su che cosa significhi per uno che è nato e cresciuto a Buenos Aires o a Rio de Janeiro e che è italiano perché è discendente di quarta, quinta generazione, che cosa significhi votare per le cose che egoisticamente dico io, qui ci sono e qui ci riguardano. Ma anche questo rientra nel gioco complesso di questa difficile da districare connessione fra memoria, identità e movimenti migratori. Tanto più che oggi, come vedete, i movimenti migratori ci sono, ma non sono più in uscita, sono in entrata, e di nuovo ci sono problemi e di nuovo vengono usate armi come quella della mobilitazione per il voto amministrativo, non a caso suscitata in contropiede, diremmo, rispetto alle sinistre, al centro-sinistra, da Gianfranco Fini. E anche lì guardate che siamo, non dico maturi, ma quasi, per raccogliere il frutto di una sedimentazione di esperienze che riguarda almeno gli ultimi 20 anni. L'immigrazione straniera, non so come sia adesso a Bolzano e provincia, se sia forte o meno perché non sono documentato, però è un fatto da considerare non attuale o recente, ma risale a qualcosa indietro, addirittura in altre parti d'Italia a 20 anni fa. E quindi 20 anni sono è una generazione e consente di arrivare al punto, cioè di avere anche le memorie degli immigrati. Questo spero non sia il mio telefonino, perché se fosse il mio dovrei vergognarmi moltissimo, ma vi assicuro e concludo che non più tardi di 15 giorni fa, è il mio, sì, allora meglio stuarlo, è di là però, è dentro, mamma mia che figura, no lasci lì, suoneranno alla disperata, no, non più tardi di 15 giorni fa è successa una cosa che mi esime anche in qualche misura dalla vergogna. Peraltro lo avevo lasciato fuori dall'aula di studio. Durante la messa, all'elevazione, è suonato il telefonino al celebrante e la prima cosa che molti hanno pensato era che l'Altissimo si fosse messo direttamente in comunicazione per dirgli spegnilo. Grazie. È sempre difficile parlare dopo le affascinanti esposizioni di Emilio, che è un grande comunicatore, oltre che essere una persona di grande cultura e di grande spessore. Io mi scuso perché hai messo una fetta da un malanno di stagione, quindi mi terrò un po' agli appunti proprio per non sbarrellare del tutto. Chiedo anche anticipatamente scusa per la mia inesistente pronuncia tedesca. Allora, io avevo decisamente nicchiato quando l'amico Giorgio delle Donne mi aveva proposto di parlare del Vorarlberg e dell'emigrazione trentina. Perché? Perché questo argomento è molto particolare. Difatti, l'emigrazione trentina in Vorarlberg è una emigrazione all'interno di una regione plurietnica. Quindi non c'è il passaggio dei confini nazionali, tutto sommato era un caso di mobilità interna. Però è un caso assolutamente particolare, peraltro sempre foriero di polemiche, soprattutto se inserite, come in questo caso, nello scenario di memoria e identità nell'emigrazione, perché in buona parte quanto ha detto Emilio per i veneti si ricalca tranquillamente anche per i trentini. Pertanto, questo argomento di emigrazione in Vorarlberg alimenta un dibattito che per molti aspetti è irrisolto. E a volte disorienta anche gli studiosi, perché troviamo sempre fautori convinti nell'attribuire degli improbabili sentimenti di appartenenza o detrattori accaniti di quelle che sono sfocate memorie individuali. E non ultimo, il caso Vorarlberg sfugge a quella che è la reale portata di questo dibattito su memoria e identità e al collegamento con la fase storica che stiamo vivendo, perché oggi stiamo vivendo la costruzione dell'identità europea ed è questa la mia cornice di riferimento. Pertanto io credo che questo processo di costruzione dell'identità europea è una forma non ultimo di superamento di quel quadro minimalista della storia dell'emigrazione a livello provinciale in chiave entropica, come lo è stata a lungo, perché la realtà della storia dell'emigrazione italiana molto spesso è stata la storia di province o di regioni aggregate, oppure è stata storia nazionale fatta su appiattite statistiche nazionali. Ma si potrebbe anche obiettare che la stessa idea di Europa non è ancora realizzata ed è, come dire, un processo molto esitante. In questa indeterminatezza mi è sembrata interessante la traccia che ha proposto Gérard Delanty di una Europa considerata come un'idea regolatrice dei processi di costruzione dell'identità, un modello culturale di società, un punto di convergenza per le identità collettive. In una società multipla dove coesistono identità multiple, situazione di cui gli emigrati sono stati antesignani. Estremizzando, si potrebbe forse parlare dell'europeismo degli sradicati. Una definizione che possiamo anche proiettare sui sudditi asburgici quando si muovevano all'interno dei confini dell'impero multinazionale come individui che passavano senza ostacolo da una stanza all'altra di un grande appartamento, secondo la felice immagine che ci ha trasmesso Roth. Nell'architettura della costruzione europea è evidente il pericolo dell'appiattimento identitario sull'idea realtà dell'Europa unita. E forse, poiché il mito europeo è ancora esile, è possibile che i contenuti identitari derivanti dal passato dei suoi abitanti siano messi fortemente in discussione. Magari attraverso una sorta di governance attiva su un'identità che spazia dalla quotidianità nei suoi aspetti materiali ed emozionali alle culture alte e basse, elitarie e popolari. Il caso Vorarlberg, quindi, lo inseriamo nel contesto europeo di oggi. E vorrei dire che non c'è identità se non c'è memoria. Ma quale memoria? Qual è la memoria di un trentino che emigrava rimanendo all'interno dei confini del suo land in Vorarlberg? Era un suddito asburgico che si spostava entro i confini della principesca contea del Tirolo Vorarlberg, a cui apparteneva, o era un italiano immigrato? Prevaleva la cittadinanza dell'impero o l'appartenenza ad un gruppo etnico-linguistico relativamente minoritario? Qual era il genius loci? La localizzazione della provenienza, in questo caso, era positiva nella valutazione linguistica, perché parlavano italiano ma non erano italiani. Era però ininfluente in altre categorie di giudizio, dove si considerava la cultura d'origine nell'accezione integrale del termine. Da parecchi anni mi occupo di identità e memoria nell'ambito della storia dell'emigrazione, secondo un'accezione di storia che nel prosieguo degli studi è divenuta cronaca. E comincio a chiedermi se non sarebbe opportuno parlare di politica della memoria anziché di storia, per l'arte con cui si governa il ricordo, un po' quel che diceva prima Emilio, soprattutto in campo migratorio, dove in realtà domina il sincretismo dei ricordi, quindi una memoria spuria. E il ricordo, governato da un'iniziativa politica, quindi mi riaggancio a te, neanche ci fossimo messi d'accordo, credo, implica una visione esplicita mirata a priori a conservare taluni elementi, ma anche a sradicarne o quantomeno a trasformarne altri. E questo è una cosa su cui non si può essere d'accordo. La strumentalizzazione della memoria non è peraltro cosa nuova, soprattutto quando si tratta di mitizzare le proprie origini, sia in termini di antenati, chi se li ha, sia nel caso dei migranti. Luogo di origine, preconcetti, ambiguità e confusione sono sempre presenti quando si parla di radici, di anacronistici legami di sangue, di sentimento di appartenenza e a volte, per gli italoamericani, molto concretamente, il tutto confluisce nella riacquisizione della cittadinanza italiana, intesa come un diritto, magari da chi vanta ascendenze risalenti ad un trisavolo e nelle vene gli scorre un sangue che rappresenta mezza Europa. Difatti, non a caso, la vera mira è l'acquisizione del passaporto europeo, non di quello italiano. Tutto questo mi infastidisce profondamente per la miopia, quando non la malafede, sia degli aspiranti italiani che di coloro che li inducono a questa mistificazione, perché la cittadinanza è altro. La cittadinanza non è una questione di sangue o diritto, è un sentimento di comunanza, di condivisione di valori, è l'identificazione in un determinato ambito culturale. E qui a me piace sempre ricordare Stendhal, il quale diceva che il nostro paese è dove troviamo gente simile a noi, tant'è che lui si sentiva milanese ed è sepolto addirittura a Milano. Quindi, alla luce di quanto detto, pertanto, parlare del flusso migratorio trentino in Vorarlberg significa problematizzare l'integrazione sociale, il conflitto di genere, l'etnicità in relazione al complesso itinerario di formazione delle identità individuali e collettive in un contesto già multietnico, mettere in discussione il passato per una prospettiva futura di consapevolezza delle proprie origini. Gli storici di parte tedesca fanno risalire le origini dell'immigrazione trentina in Vorarlberg al decennio 70 dell'Ottocento, mettendoli in relazione alla seconda industrializzazione allora in atto in Vorarlberg. L'espansione delle industrie tessili e l'ampliamento delle vie di comunicazione furono le premesse allo sviluppo di un movimento immigratorio regionale e internazionale. La sua popolazione è passata da 107.000 abitanti del 1880 ai 145.000 del 1910. I cittadini austriaci di madrelingua italiana residenti nel Vorarlberg, secondo le rilevazioni censuali, sono stati in costante aumento tra il 1880 e il 1910, passando da una presenza pari a 1,39% sulla popolazione globale al 4,41% alla stessa data. La stessa data, però, la presenza di lavoratori di lingua italiana, quindi regnicoli più Welschtiroler, assommava al 5%, il che fa capire come la grandissima maggioranza fosse rappresentata dai trentini e solo lo 0, dagli italiani. Non sempre è facile però seguire la presenza dei trentini in queste zone, perché spesso venivano assimilati genericamente a coloro che parlavano italiano, facendo prevalere l'appartenenza al gruppo linguistico sulla nazionalità, cosa che assumeva un preciso significato alla luce degli avvenimenti di quegli anni. Siamo nel periodo dell'irredentismo. E non ci è dato sapere con esattezza quanto i trentini comprendessero realmente questa condizione di fatto discriminante in termini amministrativi e politici. A mio avviso non l'avevano proprio capita. Sino al 1880 quasi il 50% degli immigrati trentini in Vorarlberg proveniva esattamente da un paese della Valsugana, da Telve. Qui non sto a distinguere se di sopra o di sotto, comunque Telve era. Più altri paesi sempre della Valsugana. Nel 1877 quasi tutti gli italiani domiciliati a Bludenz, circa 200, ad esempio, vivevano nelle case AU9, di proprietà della ditta Getzner, Mutter e CIE, promotrice della, tra virgolette, colonia sudtirolese, alias Trentina, quasi ghettizzati in una precisa zona, così almeno asserisce un certo Sutterlutti. Oggi si scrive così, ma Sutterlutti è di chiara ascendenza friulana. Dove abitavano? E qui cito testualmente, in alloggi necessari, così era descritto, ricovero di questa enorme mola di immigrati che vennero per lo più ricavati da edifici acquistati nelle vicinanze degli opifici, magazzini o in stabilimenti obsoleti opportunamente ristrutturati in immobili acquisiti in aste giudiziarie e più tardi in specifici quartieri all'oppo costruiti in terreni di proprietà dell'azienda. Nel 1871 iniziò a sorgere, sempre a Bludenz, il cosiddetto quartiere trentino, con un nucleo iniziale di 2 edifici che contenevano 8 appartamenti di 26 metri quadrati l'uno. Quindi siamo al di sotto, credo, di un mini appartamento. Questo era quanto si offriva. In tali edifici, oltre alla zona notte, si trovava una cucina e una mensa comune, una cantina, una legnaia, alcune sale di ritrovo. Nel 1876 veniva allestita anche una lavanderia comune. Facciamo progressi. Nel decennio 90, essendo sempre più numerosi i familiari che raggiungevano i trentini emigrati, si dovettero ampliare gli alloggi affrontando il problema di nuovi edifici e i nuovi appartamenti, sempre vecchi appartamenti ristrutturati, riattati, eccetera, avevano adesso un'ampiezza di 40 metri quadrati per famiglie che sovente ammontavano a 8 membri. Queste case, viste ancora oggi nella toponomastica locale come quartiere trentino, in realtà erano letteralmente un ghetto per coloro che parlavano la lingua italiana ed erano austriaci. In particolare un consistente contingente di emigranti valsuganotti arrivò in Vorarlberg in concomitanza con la costruzione della ferrovia dell'Arlberg e in questo periodo si stanziarono principalmente nel territorio del comune di Klösterle, dove c'era una piccola colonia formata da 200 persone. Questo è stato l'inizio. Di qua si avvia una sorta di train migration che comincia ad attirare prima soltanto individui maschili in età lavorativa, successivamente donne in età lavorativa, per ultimo arriveranno i nuclei familiari. E la cosa continuava ad essere gestita come all'inizio, vale a dire erano sempre delle persone che non si capiva bene se erano austriaci oppure no. Nel Novecento, in Vorarlberg, la presenza genericamente definita italiana, ma in realtà in gran parte trentina, variava da un massimo del 40% a Kennelbach ad un minimo del 7-11% a Feldkirch, Nenzing, eccetera. Comunque rappresentavano sempre il gruppo etnico più numeroso tra gli immigrati. Nel 1911 un'indagine dell'Ufficio per la mediazione del lavoro della Camera di Commercio e di Industria di Rovereto rilevava come il flusso migratorio dal Trentino verso il Tirolo Vorarlberg, quindi dobbiamo anche togliere un po' di gente che si fermava probabilmente prima, ammontasse al 48,5% dell'immigrazione globale. Di questi ben 6.442 erano uomini, il che fa presumere quindi una pendolarità nell'emigrazione di medio termine. Ancora abbiamo questa gente, in prevalenza proveniva dalla Valsugana. Il problema comincia a porsi in termini diversi se valutiamo l'aspetto etnico in una terra di migrazione, come era divenuto il Vorarlberg nel tempo, che aveva sviluppato peraltro una identità regionale sotto forma di una coscienza germanica fortemente chiusa verso l'esterno nei confronti della popolazione dell'Arlberg orientale e all'interno verso le minoranze degli immigrati. Sin dalla prima, da prima della Grande Guerra, c'è questa situazione quindi di pesante, chiamiamolo etnocentrismo, da parte dei foralberghesi. E questa preoccupazione i foralberghesi la esprimono nei confronti della massiccia presenza straniera, individuandola come una presenza, tra virgolette, inquinante della loro identità regionale, in particolare per il caso trentino. E per il caso trentino sono molto significative le parole di Grabher, presidente del Vorarlberg dal 1955 al 1976, autore di una storia del Vorarlberg, che ricordando l'emigrazione trentina del periodo asburgico, ha scritto: a prescindere dal peso della mano pubblica, il sano istinto della gente di allora sentiva che una economia in espansione, senza sufficiente forza lavoro, ha in sé qualcosa di innaturale, un qualcosa che nasconde molti pericoli anche in caso di appartenenza allo stesso Stato. Direi che qua la dice tutta. Come conciliavano questa situazione innaturale gli autoctoni imprenditori di allora, che avevano bisogno della manodopera trentina? Ebbene, organizzando una manodopera effettiva con diritto di cittadinanza ed una quota di forza lavoro marginale, flessibile, priva di diritto di cittadinanza e quindi facilmente eliminabile secondo le oscillazioni del mercato, composta da immigrati di varia provenienza, ma soprattutto di trentini. La cittadinanza comunale era il mezzo che consentiva la legale esistenza di una massa di forza lavoro marginale, perché il suo ottenimento era quanto mai difficile. La legge imperiale 3 dicembre 1863, numero 105, stabiliva che il diritto vincolato, o cittadinanza comunale che dir si voglia o pertinenza, era la condizione essenziale per determinare il domicilio di soccorso a cui il lavoratore doveva far riferimento in caso di necessità. Questo si acquisiva per nascita, se il padre aveva già tale diritto, col matrimonio per le donne, con l'ottenimento di un pubblico impiego o con l'assunzione nel nesso comunale dopo 10 anni di imperturbata dimora. E questa è la difficoltà, perché 10 anni consecutivi nello stesso posto difficilmente i trentini ci potevano stare. Lo spirito di questa legge si comprende pienamente se si pensa che il contratto medio all'epoca era di 4 anni per chi otteneva un contratto, e di norma era molto difficile che un trentino restasse per più di 5 anni nello stesso posto, perché si faceva, se era fortunato, un contratto di 4 anni, ma poi era difficile che ne ottenesse un altro. Pertanto la legge comunale, elaborata sulla base della precedente legislazione governativa, consentiva alle autorità di espellere dal territorio comunale coloro che, privi del diritto vincolato, non erano in grado di mantenersi e avrebbero quindi dovuto far ricorso alla pubblica assistenza. Bastava un periodo di disoccupazione o la fine del contratto per essere espulsi. Anzi, c'è un termine molto peggiore, che io cito testualmente, per essere annullati assieme alla famiglia dal nesso comunale. Gli episodi sono infiniti, a me ne è rimasto impresso uno. Il figlio di una famiglia trentina che aveva marinato